Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chiudete gli occhi, afferrate la mano del vostro vicino, se avete qualcuno vicino, perché oggi, cari amici, parliamo di paura. Ma potete rilassarvi, perché se la paura fa 90, l'unione fa la forza. In linea con noi ci aiuta il professor Giampaolo Perna. Professore, buongiorno. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menia ad Albese Concassano e professore all'Università di Maastricht e di Miami. Professore, ognuno conosce la paura e anche quella sensazione, quelle sensazioni che l'accompagnano, il cuore che salta in gola, il respiro che si fa corto, le mani che sudano. La paura la conosciamo e la sperimentiamo sin da quando siamo piccoli, con gli anni però non sempre ci abbandona, a volte spesso si trasforma, si amplifica, prende delle caratteristiche nuove, differenti. E professore, lei sa bene che non serve a nulla sentirsi dire ma dai, non avere paura, cosa fai, ma alla tua età, perché è qualcosa di istintivo, ma questo ce lo spiegherà lei, di vitale e di ingovernabile. Ma è proprio vero, la paura, ricordiamoci che è preziosissima, perché fa parte del nostro sistema di difesa dai pericoli, quindi se uno non avesse paura in brevissimo tempo sarebbe morto. Quindi qualche cosa ci aiuta a superare i problemi, i pericoli, gli ostacoli. Ricordiamoci che è un'emozione, quindi non nasce dalla parte razionale del cervello, ma dalle profondità di un cervello molto più antico. Questo cervello molto più antico è potente, non è controllabile, è istintivo, no? Ed è qualcosa che nasce molto rapidamente quando siamo di fronte a una situazione in cui è meglio agire rapidamente piuttosto che pensare. Quindi distinguiamo un altro punto importante, Nicoletto. Un conto è la paura, che è una risposta davanti a un pericolo. Un conto è l'aver paura, che invece è un fenomeno di ansia anticipatoria. E infatti noi abbiamo paura della paura e anche un po' di paura a confessare le nostre paure. Mi ricordo però che quando avevo paura mia nonna mi diceva «Bene, così troverai il coraggio». E oggi vogliamo proprio lavorare su questi due termini, paura e coraggio. Beh, bellissimo questo, perché tutti pensano che all'opposto della paura ci sia il coraggio, ma questo è sbagliatissimo. All'opposto della paura c'è l'incoscienza, quindi è l'incosciente che non ha paura. Il coraggioso è quello che ha paura, che conosce la paura, ma ha la forza di superarla. Quindi il coraggio diventa una modalità di vincere la paura, no? E di usare la paura come strumento per diventare più forti. Per dare ai nostri ascoltatori degli esempi un po' concreti per aiutarli a parlare della paura, a tirarla fuori e a prenderne forse le distanze, a guardarla negli occhi, abbiamo tratteggiato tre profili diversi. Andiamo a scoprire il nostro. Ci ha aiutato il professor Perna, li ascoltiamo, poi veloci chiamateci 800 24 00 24, perché se ciascuno ha il suo profilo, per ciascun profilo c'è una strada, una soluzione. Per semplicità abbiamo abbinato ad ogni profilo un animale. Allora vi invito a riconoscervi negli animali. Abbiamo scelto il criceto, la gazzella e il toro. Voilà! Criceto, siete in allarme, sempre preoccupati di quello che potrebbe capitare. Ogni intoppo viene vissuto come un problema molto grande. Tendete a catastrofizzare i potenziali pericoli e vivete sul filo del rasoio. Per questo preferite tenere tutto sotto controllo. Gazzella, avete paura di qualche cosa di preciso. Insetti, aerei, acqua, aghi. Ma vi accorgete che questa paura non è ragionevole o è eccessiva rispetto al pericolo che correte. Ma fate di tutto pur di non trovarvela davanti. E con il tempo siete diventati abili nell'evitarla, anche se a costo di rinunciare a qualcosa. Toro, la paura per voi è come un'esplosione, improvvisa, rapida, violenta, che vi toglie il respiro. Vi fa battere il cuore all'impazzata, vi confonde. Può comparire senza una ragione, oppure quando vi trovate in situazioni sociali o davanti a ostacoli che considerate insormontabili. Criceto, gazzella, toro. In quale profilo vi siete riconosciuti? 800 24 00 24. Scrivetecelo, chiamateci, raccontateci anche quando la paura vi ha reso coraggiosi. problema è che abbiamo paura. Basta guardarci. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che professor Perna, di rimanere in valle, paura la di paura è un po'. Ci sono delle paure che ne attivano altre. Ma questo è vero perché la paura, essendo un processo di difesa, ovviamente innesca quelle che sono l'attenzione verso tutta un'altra serie di aspetti. Quindi noi partiamo da una singola paura, per esempio io posso aver paura di andare in un luogo chiuso, magari un ascensore, sì. Poi piano piano questa paura si espande a tutti i luoghi chiusi, quindi inizio la paura della metropolitana, piuttosto che dei negozi affollati e così via. Quindi è vero che in un certo senso la paura di una singola cosa può contagiarsi su altri aspetti. È vero che però anche la paura seduce, attrae, ha un fascino tutto speciale e c'è anche chi lo sa esaltare. In linea con noi abbiamo Donato Carrisi. Ciao Donato, benvenuto, bentornato. Oh, buongiorno, è un piacere essere qui, soprattutto parlare di paura, certo. Il mio pane quotidiano. È il tuo pane. Senti, ma chi ti fa paura e chi ti dà coraggio? Sono due parole con cui lavoriamo oggi insieme al professor Perna e ai nostri ascoltatori. Metto subito al lavoro anche a te. Mi fanno paura i buoni, molto più dei cattivi, perché i buoni sono quelli che tengono ben nascosta la loro cattiveria, quindi diffido sempre molto dei buoni. Mi fanno paura le bambole, questo sì, sì. Sin da piccolo, insomma è un oggetto specifico perché è importante che la paura abbia una propria consistenza, ecco, appena ha una consistenza riusciamo a riconoscerla e secondo me ciò sviluppa il coraggio. Per cui anche le stesse cose che ho citato sono quelle che alla fine mi fanno coraggio, cioè sapere che la cattiveria si nasconde anche nelle persone più innocue e in fondo le bambole non costituiscono alcun pericolo e cerco di affrontarle, insomma. Senti Donato, che cosa deve avere una storia per fare paura? Qual è il mix che l'accende? L'atmosfera? L'attesa? Ad esempio, la a me normalità. Fa molto la normalità. Sì, esattamente, perché io posso dire che per esempio al centro di un libro giallo c'è un pugnale insanguinato, ma ciò non produce alcun effetto sul lettore. Se invece al centro di un libro giallo metto un oggetto della normalità, come per esempio un baby monitor, allora tutto si trasforma, magari un oggetto collegato a qualcosa di positivo, ed ecco che la paura sgorga lì dove non ci aspettiamo di trovarla. E quindi l'ispirazione arriva sempre dalla quotidianità, Donato. Esattamente, ma la quotidianità è piena di spunti, insomma. I mostri non sono mai mostruosi, questo ce lo insegna l'esperienza. Per esempio il mostro per eccellenza dei libri gialli, il serial killer, e non è mai mostruoso, altrimenti non sarebbe seriale, certo. Altrimenti riusciremmo subito a riconoscerlo. Senti, ma oggi sono le 11:18, che spunti hai avuto guardandoti in giro, un attacco, uno spunto per scrivere qualche cosa che faccia paura? Ma certamente, ad esempio? È in continuazione. Il tuo vicino che beveva, sorseggiava il cappuccino al bar. No, ma guarda, c'è qualcosa di più semplice, cercare la paura da poi comunicare agli altri dentro di noi. Io per esempio la mattina la prima cosa che faccio annoto i sogni che ho fatto durante la notte, che sono pieni di spunti, perché lì l'inconscio si sbizzarrisce, soprattutto quando si tratta di incubi. Ecco, alla base dei miei romanzi spesso ci sono degli incubi molto efficaci. Quindi sognate, quando sognate, tutti sogniamo, ma quando vi ricordate i sogni appuntatelo, chissà che si risvegli un Donato Carrisi in noi, Donato, di questo c'è da aver paura. Grazie Donato Carrisi per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. 800 24 00 24, Criceto, Gazzella, Toro, come vi relazionate con la paura? Professor Perna, Criceto, sempre in allarme. Sono diversi tipi di, diciamo, meccanismi di difesa dai pericoli. Il criceto è a dire la verità più un'ansia, no? Sì. Perché una persona diventa apprensiva, preoccupata, quindi controlla, anticipa un po' tutto, no? Quindi la tendenza è quella di giocare molto in difesa. La gazzella invece è quella reazione potente di lotta o fuga, per cui di fronte a una situazione pericolosa esterna io scatto, quindi o aggredisco il nemico per superarlo o scappo, no? O mi immobilizzo. Pensate quando c'è per esempio un terremoto, ecco. La prima reazione delle persone non è quella di scappare, la prima è quella di essere immobili un istante, poi uno fugge, quindi la famosa reazione di lotta e fuga. Invece il tore è proprio la paura più intesa come panico, no? Quindi la crisi acuta, violenta, che travolge, improvvisa, che noi non sembra che non possiamo controllare e che ci fa proprio scatenare tutto il corpo. Stefania ci chiama all'800240024, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Stefania, ci racconti? Sì, è un racconto diciamo non diretto ma indiretto, è la paura di mio figlio di fronte agli esami. E vedo i sintomi delle mani che sudano, diventa pallido, va in tilt. Allora, questo non so se sia criceto, toro, gazzella, però senz'altro è un effetto che puntualmente ad ogni esame si ripete, e sono sicura che poi inficia molto i risultati dell'esame stesso. Come trovare il coraggio? Certo, professor Perna, l'ansia da esame c'è. Ma questo senza dubbio. Ecco, perché è anche un modo per trovare il coraggio e quindi per tirare fuori tutto quello che si è imparato ed essere concentrato nella prova. Ma Stefania ci racconta di un ragazzo che dice forse la sua paura in qualche modo gli tira un trabocchetto perché poi non rende come dovrebbe. Ma è verissimo questo, l'elemento che discrimina un'ansia o una paura patologica da una normale è che se è normale ci potenzia, quindi ci permette di funzionare al massimo, se invece ci depotenzia, cioè non ci permette di rendere come dovremmo, allora diventa un'ansia perlomeno da osservare, eventualmente da curare. È importante l'ansia sociale perché ce l'abbiamo tutti, certo. Siamo ansiosi di essere davanti al pubblico, essere giudicati dagli altri, e questo è normale. Chiaro che se questo ci blocca siamo di fronte a una vera e propria fobia sociale, in questo caso, o un'ansia da prestazione, in questo caso tutta una serie di esercizi o delle tecniche. Che vanno dalle tecniche di respirazione, allo yoga, al pilates, su cui... Si possono aiutare. Se fosse davvero eccessivo, in realtà ci vuole un intervento di specialisti veri e propri. Maila, da Milano, 800240024, criceto, gazzella, toro oppure un mix? Un gazzelliceto? Io sono il criceto, mi sono riconosciuta al 100%. Mm. Io sono molto ansiosa, io penso sempre al domani, però diciamo affronto i problemi che purtroppo non mancano a nessuno e hanno toccato, certo, anche me, ad affrontarli. Io riesco a affrontare problemi abbastanza pesanti, però vivo sempre con l'ansia, forse perché sono stata toccata da qualcosa di poco bello, sì, e penso sempre al domani e vivo sempre con quest'ansia. Sì, di quello che dovrebbe fare o di quello che dovrebbe capitare. Professor Perna. Ma io direi che la parola importante che ha detto è che lei pensa sempre al futuro. Qual è il problema? Che poi noi perdiamo il presente. Quindi l'ansioso anticipa sempre, cerca di difendersi da ciò che potrebbe accadere di negativo un domani, col rischio poi di non osservare, non vedere quelle piccole cose quotidiane che poi fanno quello che è una giornata veramente serena. Quindi in quel caso lì il tentativo di diventare consapevoli del presente è fondamentale. È chiaro che se l'ansia poi è dovuta a fattori di vita reali, certo, diventa anche difficile combatterla, perché purtroppo sappiamo che c'è la crisi, ci sono problemi personali. Ecco, e poi ricordiamo ad esempio l'esperienza del terremoto in Emilia, che ha toccato tutte, ha toccato in prima persona naturalmente gli emiliani, che stanno dando una grande prova di coraggio, ma noi immedesimandoci loro, l'idea del terremoto ci sottolinea la nostra precarietà. E quindi tutti mi stanno arrivando numerosi messaggi: non ho vissuto il terremoto, ma l'idea del terremoto, che tutto possa cambiare all'improvviso, che non ci sia nulla di prevedibile, che tutto possa accadere dall'oggi al domani, dal secondo al secondo, si ripercuote anche su persone, non solamente sulle persone che il terremoto l'hanno vissuto sulla loro pelle, ma anche più lontane. E questo ti fa un po' ripensare, per questo noi abbiamo pensato anche di fare una puntata sulla paura. Professor Perna. Ma tu stai dicendo una cosa molto importante, Nicoletta, che è quello di un cambiamento del modo di vedere la realtà. Sì. Perché i due modi in cui noi affrontiamo i cambiamenti sono quello di o anticiparli, cioè noi cerchiamo di evitare che questa cosa nuova ci cambi, no? Oppure quello di rispondere con coraggio, quindi di affrontare queste situazioni nuove per trovare dei nuovi equilibri. Allora, purtroppo, soprattutto nel mondo d'oggi in cui vedi il terremoto, vedi la crisi economica, vedi tante cose, noi non abbiamo punti di riferimento fissi, cioè oggi noi non possiamo prevedere quello che accadrà tra un anno, è praticamente impossibile. In questo caso la cosa migliore è quella di, tra virgolette, aver fiducia nelle nostre capacità, in quello che il mondo è capace di fare, e quindi affrontare le situazioni. Se noi giochiamo in difesa, quindi con l'ansia, con la apprensione, oggi ci troviamo ad aver capito e protetto una cosa quando la cosa è già cambiata. Quindi questa vita liquida, come direbbe Bauman, sì, un filosofo polacco importante, è un qualcosa che ci costringe a essere coraggiosi, quindi ci costringe a vincere la paura. A vincere la paura, che vuol dire, per certi versi, stare nel qui e ora. Questa potrebbe essere una ricetta, professore? Sì, sì, il qui e ora è un concetto importante, perché stare qui e ora vuol dire avere fiducia nel fatto che nel futuro le cose andranno bene. Allora io posso godere del presente. Nel momento in cui ho una paura rivolta al futuro, una preoccupazione continua, il presente viene perso. Ma ricordiamoci che il passato non esiste più e il presente non esiste ancora, quindi quello che c'è, il futuro non esiste ancora, quindi quello che c'è per ogni persona è il presente. 800 24 00 24 per parlare delle nostre paure, sì, ma per lavorare anche sulla paura, perché è la situazione, quell'occasione che ci permette di tirare fuori il coraggio, di affrontare un cambiamento. 800 24 00 24, se avete delle ricette, delle esperienze positive da raccontarci, noi siamo qua, ma abbiamo anche Angelo che ci chiama dalla provincia di Bergamo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Angelo. Che criceto, gazzella o toro? Sì. Sì, pronto? Sì, Angelo, criceto, gazzella o toro? Ecco, io volevo parlare che all'interno del gruppo che guidiamo in montagna, sì, che sono tutti ragazzi, riscontro tutte queste tre tipologie di animali all'interno dei ragazzi. Solo che chiedo se al professore lì, che è molto molto importante, che noi riusciamo a far affrontare le paure dei ragazzi facendosi, si aiutano tra di loro, quello un po' più grande aiuta quello piccolo e gli dice guarda metti il piede lì, chiedo se può essere una soluzione giusta per far affrontare le paure e trovare le soluzioni assieme al gruppo. Che bravo Angelo, noi abbiamo aperto dicendo se la paura fa 90 l'unione fa la forza. Professor Perna, il gruppo ma anche l'amico, il compagno. Sì, questo è molto importante perché l'unione fa la forza, è verissimo, il fatto che noi sappiamo di poter contare sugli altri per affrontare le nostre paure, i nostri ostacoli, i problemi che vanno davanti, è una delle prime lezioni fondamentali. Quindi il fatto di portare i ragazzi esattamente ad affrontare situazioni che non sono particolarmente preoccupanti, quindi non sono pericolosissime, però implicano tutta una serie di strategie per superare degli ostacoli, e il verificare che questo può essere fatto con l'aiuto degli altri è un insegnamento secondo me preziosissimo. Questo aiuta proprio a far diventare i ragazzi più coraggiosi, quindi io mi complimento perché è un'iniziativa splendida e che forse tutti dovrebbero fare nella propria vita quando sono molto giovani. Roberto, se ripeto, sì, buongiorno, io mi trovo come un criceto praticamente, sì, perché ho sempre mille paure, devo prepararmi per fare qualsiasi cosa prima di farla. La sera devo essere sicuro che sia tutto in ordine prima di andare a letto. Dal mattino inizio un'altra volta questo, le mani sempre sudate. Diventa Roberto faticoso, vero? Diventa particolarmente faticoso. Professor Perna, il controllo costante, la paura, il dover sempre... Bisognerebbe provare una volta a dire ce la fa, non penso a niente, ce la faccio, perché ce l'ho sempre fatta, ce la faccio anche oggi. Purtroppo non è così semplice, Nicoletta, perché quando io nasco con già una visione, tra virgolette, un po' catastrofica, un po' negativa del futuro. Quello che succede è che devo avere tutto sotto controllo. Quindi la persona apprensiva, per ridurre questo senso di angoscia, deve far sì che tutto sia perfetto. Sappiamo che oggi, ancora di più nel mondo attuale, non possiamo avere tutto sotto controllo, abbiamo parlato prima del terremoto, della crisi e così via. Per cui oggi l'ansioso è molto più messo in difficoltà di com'era magari 50 anni fa, 100 anni fa. È una condizione molto delicata, perché con l'ansia si può vivere, assolutamente sì, e quando un ansioso lavora rende anche bene durante il lavoro. Il problema è che non può rilassarsi, perché quando si rilassa il pensiero viene tramortito e investito da tutta una serie di preoccupazioni, di paure, di angoscia che gli fanno consumare quelli che sono i momenti nobili, che sono quelli del riposo, quelli in cui una persona può stare con se stesso. Paura dell'ascensore, sì, una sensazione di panico, cioè di soffocamento, paura di rimanere lì intrappolata e non riuscire ad uscire. Beh, le malattie. La morte. Insetti di vario tipo. Non c'è un motivo ben preciso, perché fanno impressione e basta. La cattiveria. In questo momento l'amore. Paura di non riuscirmi a realizzare. Niente paura. Niente paura, si vede la luna perfino da qui. Criceti, gazzelli, gazzelle, tori, 800 24 00 24. La paura come occasione di coraggio. Giovanna, buongiorno, ci chiama da Pistoia. Sì, buongiorno, cara Nicoletta, bravissima Nicoletta. Io sono proprio una gazzella, mi sono proprio ritrovata perfettamente e cerco di combattere le mie paure, insomma, per ora ci riesco abbastanza bene, ma quella dell'acqua non c'è niente da fare. Con grande dispiacere ho fatto anche due corsi in piscina, sono state scommesse cene su di me, ce la fai? Non riesco niente. Proprio. È il galleggiare, secondo me, è il non avere una presa, il sentire il corpo che non ha un punto d'attiglio, secondo me è quello. Professor... perché non ho difficoltà a mettere l'acqua la testa sotto l'acqua, gli occhi. E proprio abbandonarsi sull'acqua, galleggiare. Professor Perna, Giovanna ha fatto una diagnosi, cioè è un bel esercizio quello di andare a capire la ragione della nostra paura, quando non è legata ad un fatto. Ad esempio, molte persone hanno paura dell'acqua perché hanno avuto un'esperienza negativa, o hanno paura di un cane perché da piccoli sono stati morsicati da un cane, o hanno avuto dei genitori che le ha messo paura. Ma Giovanna ci dice: ho proprio paura di non avere appiglio. Ecco, le paure possono essere spiegate in questo modo? Beh, possono essere spiegate, perché le paure hanno sempre ovviamente una radice, sì. Difficilmente compaiono senza motivo. Quello che di solito va fatto, ma non è sempre facile, è esattamente di fare una sorta di terapia comportamentale, vuol dire riuscire piano piano, lentamente a avvicinarci. Evidentemente in molti casi funziona, in altri un po' di meno, dipende quanto la paura è radicata in noi. Sicuramente quello che possiamo dire è che per superare una paura bisogna affrontarla. Questo non ci sono dubbi, cioè pensarci sopra è inutile. E lei in un libro, in un suo libro, io ho letto quasi tutti i suoi libri, adesso faccio un po' di confusione, ho paura di sbagliare, potrebbe essere Psicofitness, dà tre mosse per vincere la paura. Sì, le mosse sono sicuramente, la prima è quella di affrontarla direttamente, però sì. Non basta. La seconda è quella di essere molto graduali nell'affrontarla, quindi non andare di petto. Il terzo punto importante è quello di rimanere nella situazione che stiamo affrontando fin quando l'ansia scende. Se noi ce ne andiamo via, quando ancora abbiamo ansia e paura, questo rinforza la nostra paura. Quindi lo scappare nel momento in cui sentiamo la paura vuol dire aumentare la paura. Il rimanere dentro, quindi avere coraggio, tornando al tema della trasmissione, vuol dire esattamente permettere al nostro cervello di in qualche maniera sciogliere la paura che abbiamo. Altri punti importanti sono anche questi, quello di... usare delle tecniche che ci aiutano a rilassarci, tecniche per esempio la meditazione, ma meditazione non vuol dire solo quella buddista tibetana, anche il giardinaggio, il fare l'uncinetto, piuttosto che il fare il rosario per chi crede, sono delle tecniche che aiutano a svuotare la mente, quindi dare quella calma mentale che ci permette poi in un secondo momento di affrontare meglio le paure. È la prima volta che volo, sono piuttosto nervosa, la prima volta. Sto facendo di tutto per rilassarmi e concentrarmi, quindi non sopporto il suo sguardo. No, è incredibile. Cosa? Ogni muscolo del suo corpo è teso. Ma che le palpebre e le sopracciglia. I suoi muscoli sono contratti, ma com'è possibile? Oddio, non credo di farcela. E no, invece, che ce la si può fare. La paura di volare è una delle paure più diffuse, ma la tecnologia può darci una mano. Ci sono delle cose straordinarie. Le ho scoperte facendo due chiacchiere con Marco Zamperini, esperto di tecnologia, Funky Professor, così si chiama. Ciao Marco. Ciao Nicoletta. Allora, questa tecnologia che ad alcuni fa paura, già la tecnologia, in realtà la paura, la tecnologia può essere una strada per superare le paure. Assolutamente sì, soprattutto la tecnologia della comunicazione, internet in particolare. Io posso parlare di una mia paura, che è stata la mia paura di essere un bravo genitore quando è nata la mia bambina che ha un problema all'arto superiore destro. Lei è nata con una malformazione per cui il suo braccio destro non si è sviluppato. Sì. E io, essendo appunto un appassionato di tecnologia, un grande utente di tecnologia, il primo posto dove sono andato a cercare aiuto per questa mia paura di essere, di non essere all'altezza, è stato in rete, dove ho trovato dei gruppi di supporto di genitori di bambini con questo tipo di problema che mi hanno aiutato moltissimo. Ecco. E quindi, per fare un esempio, certo, a me piace parlare di cose che ho vissuto, no? In generale, invece, come dicevi tu, c'è il caso in cui la tecnologia in maniera attiva ci aiuta, quindi su una paura che è molto diffusa, come la paura di volare, visto che tutti ormai abbiamo uno smartphone più o meno, no? Sì. Quindi un iPhone, un telefono Android, un BlackBerry, no? Diverse applicazioni che ci aiutano, in che maniera ci aiutano. Ad esempio c'è un'applicazione che, se noi mentre siamo in volo ci sentiamo presi dall'ansia, dal panico, poi questa fobia ci assale a diversi livelli, l'applicazione ci aiuta a rilassarci con delle musiche rilassanti studiate da degli psicologi, e sul display ci appaiono anche delle immagini rilassanti per aiutarci, come si dice, a distendere i nervi, no? A non far scoppiare l'attacco di panico, no? E questa è un'applicazione che ha, sì, molto successo, ce ne sono diverse e sono molto scaricate dall'application store di perché Apple, ti accompagna in volo. Ti accompagna in volo, no? Ormai il telefono si può usare in modalità aereo, no? Sì. Quindi anche durante la rotta. L'applicazione non richiede di essere collegata a internet e quindi si può usare appunto in volo. Invece ci sono altri che vivono la paura del volo, nel senso che non vogliono essere sorpresi, ad esempio, sì, durante il volo, da turbolenze, da fatti di questo tipo, e quindi c'è un'applicazione specifica per questo tipo di problema, nel senso che tu, quando arrivi in aeroporto, sì, dici il numero del tuo volo, l'applicazione conosce le varie rotte, le incrocia con i dati meteorologici e ti dice se e quando lungo la tua rotta incontrerai delle turbolenze. Questo per delle persone che devono tenere tutto sotto controllo, esatto, aiuta molto, no? Perché appunto questa capacità predittiva della tecnologia ci dà la sensazione di tenere tutto sotto controllo, e quindi sicuramente non veniamo colti di sorpresa, e chiaramente la nostra reazione è comunque più pacata. Del tipo uomo avvisato. Esatto. Grazie a Marco Zamperini, o se preferite a Funk Professor, alla prossima, perché penso che sarebbe interessante fare con te una puntata, e coinvolgiamo magari anche Enrico Pagliarini, per capire tutte gli aiuti che la tecnologia può darci per aiutarci a vivere meglio, ad occuparci di noi, del nostro benessere. Grazie Marco, alla prossima. Grazie, buona giornata. Anche a te. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo insieme con i criceti, le gazzelle, i tori. 800 24 0024, insieme a noi c'è anche il professor Perna. Paura e coraggio. E professor Perna, anche il coraggio di aver paura, come mi ha scritto un ascoltatore? Beh, sicuramente sì, perché l'accettare la paura e il non evitarla è un atto di coraggio importante che ci permette proprio, vero, di poi crescere e svilupparsi. Andiamo a Como, perché ci chiama Maurizio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a lei. Io invece anche se il comandante dell'aereo dice guardate che stiamo entrando in una zona di turbolenza, la paura c'è lo stesso. Quindi anche essendo avvisato, anzi forse peggio. Anzi, e allora lei forse dovrebbe fare quell'altro genere di utilizzare quelli con la musica, i suoni, i disegni. Proverò. La cosa che invece mi stupisce è che io faccio decine di voli all'anno, diciamo 40-50, ormai ho 59 anni, ne ho fatti centinaia. E solo nell'ultimo anno sta venendo avanti questa paura di volare che non ho mai avuto prima, assolutamente mai. E non c'è stato nessun episodio scatenante. Nasce così all'improvviso. Nasce così all'improvviso. Professor Perna, ci sono delle paure che arrivano inaspettatamente, senza una ragione. Abbiamo paura di prendere l'aereo quando abbiamo fatto tanti voli, oppure di fare un viaggio lungo in macchina, o di prendere l'ascensore. Perché? Ma l'esperienza precedente non ci serve. Perché la paura in qualche maniera è legata anche alla consapevolezza. Cioè, se io sono, tra virgolette, facciamo un esempio estremo, spericolato, no? Perché non mi rendo conto di una serie di pericoli possibili. Sì. Quindi ovviamente con l'andare avanti dell'età qualche volta ci si rende conto del valore per esempio della vita piuttosto che del pericolo possibile nel fare una cosa piuttosto che l'altra. Sì, allora ma nel caso del nostro ascoltatore andare in aereo è assolutamente tranquillo e non l'ha mai avuta e gli arriva questa paura. Come si fa a in qualche modo a superarla? Guarda, a superarla la prima cosa banalissima è quella di affrontarla, però lui sta affrontando evidentemente. La seconda cosa importante è avere una mente in qualche maniera che sia liberata dai pensieri. In questo senso delle applicazioni che possano liberare la mente con la musica piuttosto che altre possono aiutare. È anche vero che quando la paura è veramente forte c'è poco da fare, cioè questa ci travolge e dobbiamo soltanto, come dire, accettare che arrivi la paura e superare il pericolo durante il momento in cui ce l'abbiamo. Ecco, professore, lei dice, lei è veramente forte, forte come un toro, come il profilo del toro, che viene invaso letteralmente da questa paura, che si manifesta con dei segnali, dei sintomi fisici, il respiro che si fa affannoso, a volte proprio si ha una crisi respiratoria, il cuore che batte all'impazzata, la sensazione di perdere proprio il controllo. Quello è un attacco di panico, sì. L'attacco di panico è il più potente di quelli che sono i fenomeni difensivi della mente, quindi un po' delle paure in generale, ed è qualcosa che quando arriva travolge la persona. Allora, in quel momento il cercare di controllarsi, il dire a qualcuno controllati è sbagliatissimo, la cosa migliore è quella di calmare il respiro, proprio perché la respirazione è uno dei punti cruciali, il fatto di imparare prima dell'attacco a respirare con la pancia, a rallentare il respiro, ci permette poi durante l'attacco di automaticamente innescare questi meccanismi di protezione. Comunque durante l'attacco di panico dovete evitare di ansimare, questo è cruciale, quindi rallentare il respiro, in alcuni casi respirare in un sacchetto di carta può aiutare. E quindi anche se noi assistiamo ad una persona che ha un attacco di panico, quello che possiamo fare è di aiutarla a respirare lentamente, ho capito bene? Sì, assolutamente, bisogna dirgli di chiudere gli occhi, di concentrarsi sulla pancia e di respirare in maniera più lenta possibile. Non è facile, però dovete insistere. Quando la persona prende padronanza del respiro, a quel siamo punto fuori. Anche la mente si calma, esatto, brava. Flavia, buongiorno, da Roma, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno Flavia, benvenuta. A voi. Dunque, volevo parlare proprio di questo aspetto molto, molto particolare, perché è un attacco di panico, è un aspetto quasi per certi aspetti devastante, tra virgolette, perché è imprevedibile e quindi non si può assolutamente appunto prevedere anche le conseguenze, cioè il terreno sotto i piedi che non senti, appunto il respiro corto e la paura anche di che ti succeda qualcosa di brutto. Sì. E si sente svenire, sì. E a me è capitato svenire, quindi si associa il fattore psicologico al fattore fisico, però voglio dire anche un'altra cosa, cioè si supera, si affronta soprattutto riconoscendolo come tale, cioè non aver paura di questa forte paura che ci sovrasta. Perché dagli attacchi di panico si può guarire. Quindi Flavia, è un po' quel messaggio che mi aveva mandato un ascoltatore, il coraggio di aver paura, di guardare la paura in faccia. Questa è una paura molto forte, l'attacco di panico ha proprio una sua spiegazione anche biochimica a livello cerebrale, professor Perna, vero? Assolutamente sì. Abbastanza chiaro che l'attacco di panico nasce da un sistema di allarme nel cervello che funziona male, come un sensore d'allarme rotto, e quindi squilla in maniera improvvisa e inattesa. Bisogna essere realisti in quel caso, quando ci sono troppi attacchi di panico non c'è null'altro che comunque farsi aiutare da uno specialista, perché essendo un allarme tra virgolette rotto bisogna ripararlo. È chiaro che una volta riparato l'allarme questo non è sufficiente, noi dobbiamo a quel punto lì affrontare tutte quelle paure, quelle ansie che questo allarme ha innescato, quindi affrontare tutte le fobie, tutta quella paura di poter star male che di fatto ci ingabbia nella vita. Però ricordatevi, se c'è un attacco di panico frequente dovete comunque chiedere aiuto, anche perché il prezzo che pagate è perdere la libertà, che è una cosa che sappiamo preziosissima. Anche perché poi diventano sempre più ravvicinati, vero professore? Assolutamente sì, col tempo. In alcune persone possono anche, devo dire la verità, scomparire per i fatti suoi, ma sono molto poche. Nella maggior parte diventano più frequenti, soprattutto costringono la persona a condizionarsi nella vita e quindi a perdere la libertà di fare tante cose per difendersi dall'attacco di panico. Quindi liberi dalla paura e più forti della paura. Più forti della paura è il titolo di un libro molto interessante che vi consiglio di leggere. E in linea con noi abbiamo uno degli autori, Dionisio Ciccarese. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a te Nicoletta e ai tuoi ascoltatori. Insieme a Vito Covelli, un libro tutto dedicato alla paura, una lettura della paura. Dionisio. È un'intervista, forse io mi diverto a dire la più lunga intervista sulla paura. Sì, perché in effetti svisceri bene il tema. Dionisio è un giornalista. Dimmi, Dionisio. No, dico soprattutto abbiamo fatto, perdonami se ti ho interrotto, ma abbiamo fatto ricorso alla tecnica dell'intervista. Proprio perché uno degli obiettivi di questo libro è quello di esaltare il valore terapeutico della comunicazione, quindi l'intervista a un emittente, un ricevente che a sua volta si ritrasforma in emittente, mettono in comune alcuni concetti che speriamo possano essere utili ai nostri lettori. Assolutamente, alla base di tutto c'è, tu spingi sul valore dell'informazione, della competenza. Sul valore soprattutto della comunicazione più che dell'informazione, perché l'informazione è un metodo, è un modello unidirezionale e spesso può fare dei danni. Il professor Perna, che oggi ha fatto una trasmissione assolutamente rassicurante, è stato un campione della comunicazione in questo tuo programma, perché ha trasmesso una serie di elementi che possono essere utili alle persone a superare le paure. Più forti della paura, Vito Covelli e Dionisio Ciccarese. Grazie Dionisio per essere stato con noi, complimenti per il libro. Grazie, grazie a voi. E noi ringraziamo anche il professor Perna. Noi dico, perché molti ascoltatori mi hanno scritto messaggi, professore, indirizzati anche a lei, quindi grazie. Grazie a tutti quanti. Noi ci sentiamo come sempre domani, dopo il GR delle 11. Potete sempre scaricare la puntata, seguirci sul nostro profilo Facebook, su Twitter. Che cosa potete fare d'altro? Andare sul nostro Daily Lab a leggere il consiglio del giorno e potete come sempre scriverci. Stiamo in contatto. Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto. Vi saluto anche con un po' di anticipo. Fantastico, perché ho sempre paura di andare oltre il tempo e ho sempre paura quando entro in studio e accendo il microfono, ma voi mi rassicurate. Grazie, a domani, buona giornata.